4 mattino con Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24 e di 24 mattino naturalmente, sono le 8, 12 primi e 22 secondi e anche oggi sarà così fino all'esaurimento del periodo festivo con il prossimo festimana della Befana. Oscar Giannino da solo e un abbraccio sempre a Maria Latella che tornerà tra noi prestissimo. Allora vi dico subito, se volete potete chiamare all'800 24 00 24, sapete che per le opinioni invece tramite sms whatsapp il numero è 349 238 6666. L'interrogativo del giorno è sapere come la pensate sui sindaci ribelli nel decreto sicurezza. Sintesi, ma l'avete sentito molti di voi già al giornale radio e alla rassegna stampa di Giulia prima. Il sindaco di Palermo ha dato il là, Luca Orlando, alle prese di posizioni ferme di una serie di sindaci nel nostro paese che si attestano su una linea molto critica nei confronti del decreto sicurezza del ministro dell'interno e vice premier Salvini. E Orlando e con lui il sindaco di Napoli De Magistris, il sindaco di Firenze Nardella che abbiamo avuto ospite ieri, dichiarano di non applicare il decreto sicurezza in quanto disumano e in quanto con conseguenza per il meccanismo restrittivo della precedente definizione della tutela umanitaria, un meccanismo creatore di nuovi clandestini regolari, nel mentre naturalmente i rimpatri col piffero che funzionano davvero. Ricordatevi che la promessa elettorale era: ne rimpatrieremo 500.000, sì, come no. Allora, il problema è una questione però di legalità e di legittimità da parte di questa protesta dei sindaci. Per esempio, durissimo il commento di Carlo Nordio, l'ex procuratore di Venezia, magistrato liberale, sul Messaggero, perché Carlo Nordio dice: qualunque cosa si pensi del meccanismo del decreto e della condizione paradossale per la quale può, in effetti, se non si riprende il controllo di questo meccanismo della restrizione dei criteri della tutela umanitaria e di come fare rispetto alle persone che a quel punto vengono espulse dal sistema SPRAR e diventano appunto i nuovi clandestini irregolari esposti anche alla temibile presa delle reti criminali, Carlo Nordio dice: però se qui ci mettiamo a disapplicare le norme di legge, e lo fanno per primo i sindaci, dove andiamo a finire? E le sue parole sono ancora più dure, a dire la verità. E lui dice: è un vecchio show ed è a quel punto incredibile che chi veste la fascia di sindaco e soprattutto anche, dice alla fine, chi appartiene al partito che dovrebbe essere invece fiero e orgoglioso del fatto che Comminiti è stato il primo, prima di Salvini, a far girare la questione sicurezza e immigrazione verso una ripresa del controllo da parte delle istituzioni italiane, oggi invece disapplichi il decreto sicurezza dei Salvini. Allora io vi chiedo sinceramente di dirmi come la pensate, perché in effetti la contraddizione crea irregolari c'è. È inutile negarla, è stata una delle obiezioni secondo me non raccolte al decreto sicurezza, perché il tentativo politico era quello di mettersi la stella di sceriffo rispetto al fatto: noi non diamo più tutela umanitaria a chi non la merita, grande cosa restrittiva, però buttare fuori la gente per strada significa, non potendola rimpatriare, significa inevitabilmente far risalire la pressione, il numero degli irregolari. Che questo poi serva a fini politici a dire, visto che gli sbarchi sono finiti o quasi, a dire: ecco, centinaia di irregolari è un altro paio di maniche, li hai creati per legge. Però anch'io mi pongo la questione, questo dissenso politico, che è legittimo, però autorizza le autorità dello Stato, come sono i sindaci anche, no? A dire: io lo disapplico nel territorio del mio comune. Ecco, chiamateci e diteci come la pensate. La questione diventa: qual è il limite che ci poniamo oltre il quale lo scontro politico, per quanto duro, motivato o anche immotivato, ideologico, chiamatelo come volete, perché lo scontro politico non è sempre motivato. Però la piena libertà di articolare lo scontro politico, quale linea di confine si deve porre, oltre la quale, se investe comportamenti delle istituzioni e non le libere espressioni politiche, diventa poi anarchia e caos? Ecco, questo caso lo rappresenta bene, perché da una parte ci sono principi umanitari fondamentali, i sindaci invocano quelli, ma dall'altra c'è, vabbè, ma ognuno fa come gli pare, e quindi mi interessa molto sapere come la pensate da questo punto di vista. Prima dell'ospite del giorno, con l'ospite del giorno invece tratteremo un altro argomento, perché sarà con noi Walter Ricciardi. Walter Ricciardi è un docente di medicina preventiva che è stato direttore fino a pochissimo tempo fa dell'Istituto Superiore di Sanità e si è dimesso perché ha detto questo governo ha posizioni antiscientifiche, e quindi il suo Repulisti vuole negli organi tecnici consulenza delle autorità politiche del Ministero della Salute, vuole dei medici e degli scienziati che siano in linea con le sue convinzioni Novax. E quindi sentiremo con lui l'approfondimento di un tema che per me è fondamentale. Come è fondamentale, e in questo ve l'ha già opportunamente segnalato Giulia nella sua rassegna stampa sul Foglio oggi, un'iniziativa in linea con questo tema. Io ve la voglio solo segnalare, poi passo a segnalarvi altri due o tre temi prima di cominciare con il nostro ospite. Ho dimenticato di fare gli auguri a chi si chiama Genoveffa oggi, Santa Genoveffa. Santa Genoveffa potrà far un po' ridere in Italia, ma è una, per esempio, delle sante fondamentali del culto nazionale della Chiesa Gallicana in Francia. Ecco, però auguri a chi si chiama Genoveffa. Volevo dire oggi, sullo stesso solco, nello stesso tema, sullo stesso argomento per il quale abbiamo chiamato il professor Walter Ricciardi, che sarà tra poco con noi, un'iniziativa del Foglio. L'iniziativa del Foglio che si batte con grande energia sul tema del contrasto alle false informazioni che in materia di informazione scientifica e a cavallo tra politica e scienza inquinano i pozzi attraverso i quali soli si può formare con acqua limpida e quindi informazioni corrette, fondate, l'informazione pubblica di chi non ha i titoli e gli strumenti per capire cosa sia fondato e cosa no in materia scientifica, e finisce per aderire a campagne di fake news. E oggi sul Foglio trovate questa lettera di 130 scienziati che muove l'iniziativa di fare questo appello pubblico contro l'allarmismo immotivato, le notizie infondate nella materia medico-scientifica, da un'iniziativa che qualche tempo fa è stata assunta sulla materia dei vaccini ancora una volta dall'associazione FreeVax Corvelva, finanziata dall'Ordine dei Biologi e a cui diede vasto spazio il quotidiano Il Tempo. E un presunto scoop per il quale nei vaccini analizzati ci sarebbero assenti addirittura gli agenti immunogenici, cioè quelli che devono proteggere dalla malattia, invece vi sarebbero presenti delle sostanze incredibili come diserpanti, cioè cose nocive al massimo grado per la salute. Fake news assoluta, che eppure ha travolto tanti che gli hanno dato retta. E a questo punto la questione è anche sempre più quella del discutibile ruolo dell'ordine dei biologi. E queste analisi shock affette da errori metodologici gravissime, eppure che dominano poi l'attenzione e vengono poi riprodotte sulla rete per settimane, mesi, anni, diventano il punto di riferimento di una vera e propria campagna che, sapete, è in corso da tempo, che nel nostro paese è diventato un paese avanzato in cui questa storia dei Novax ha il massimo credito rispetto a tutti gli altri paesi avanzati. Ecco, vale la pena di leggere questo appello dei 130 ricercatori e scienziati che sono tutti progetti di curricula e esperienze di ricerca scientifiche conclamate, acclarate. Quindi stiamo parlando di chi è sulla frontiera più avanzata nella ricerca per i tumori solidi, chi per quelli della genetica molecolare, della ricerca sulle staminali. L'elenco è molto lungo ed è un elenco però che proprio per la sua ampiezza dà l'idea della rappresentatività non solo di chi firma un appello così, ma della profondità e della rilevanza del tema. Se l'informazione si mette davvero a dar credito e a non controllare gli appelli costruiti su ideologie antiscientifiche, beh, il presupposto di un dibattito pubblico fondato viene meno. Ecco, e di questo parleremo tra poco con il nostro ospite, uno scienziato a propria volta, un medico che dice: beh, io non faccio l'allineato politicamente su tesi che la politica vuole imporre per i suoi interessi a risultanze che la scienza sperimentale fa progredire solo attraverso la replicabilità degli esperimenti, la peer review della letteratura scientifica e così via. E quindi me ne vado per protesta. A questo volevo aggiungere, prima di parlarne più a lungo con il nostro ospite, qualche altra spigolatura presa dai giornali di oggi. Ecco, vi sono quotidiani su questo, il Sole 24 Ore e La Stampa, che iniziano ad approfondire il tema dei particolari del reddito di cittadinanza. Al Sole 24 Ore trovate le 10 tappe per ottenere l'assegno. Cari colleghi del Sole, a me continua a sembrare molto molto ottimistico pensare che dal 1 marzo si fa la domanda alle poste e poi ad aprile ti arriva la card col sussidio. Cioè, possiamo mettere un vaglio su quello che scriveranno in questo decreto quando ci sarà e spiegare ai nostri lettori che a marzo si fa la domanda all'INPS e ad aprile arriva la card col sussidio? C'è scritto qua, io sto leggendo il sommario di pagina 3 perché... Comunque, questo è quello che trovate sulla stampa, sul Sole 24 Ore. Sulla stampa invece, e anche qui si aderisce allo schema che è arrivato ieri ai quotidiani di informazione, cioè ecco tutti i dettagli, prime lettere ad aprile, assegno medio si dice 498 euro, ma... Anche qui l'assegno medio, stante la diminuzione degli stanziamenti, 498 euro, sì, a patto che la platea sia iperlimitata, colleghi della stampa. Quindi altrimenti voglio capire come si fa a fare con quello che è rimasto. E voi scrivete: saranno 5 milioni i beneficiari, cioè 1,4 milioni di nuclei familiari. Leggo dall'articolo della stampa, pagina 7. E no, perché se saranno 5 milioni di beneficiari, cioè 1,4 milioni di nuclei familiari, la cifra con l'assegno medio di 498 euro non torna, visto che poi bisogna pensare anche alle cifre che vanno ai centri per l'impiego, e bisogna quantificare quanto davvero, punto interrogativo, fosse riservato sin dal primo anno alle imprese. Punto interrogativo, io non lo sto chiedendo, che però assumessero coloro che aderissero alle proposte che rappresentano il regime vincolante, le proposte di lavoro, di occupazione, oltre il cui terzo no, poi si perde la titolarità al reddito di cittadinanza. Faccio queste due spiegolature semplicemente perché ammetto i numeri continuano a non tornare, quindi io, in assenza di testi, le veline, perché di questo si tratta di veline che vengono dal governo, io ci andrei più piano. Mi rendo conto che faccio sempre il mio ruolo di rompiscatole e che i miei colleghi dicono: ma che cacchio vuoi tu? Però ecco, mi limito a dire questo. Il segnale reale che è venuto ieri dal mercato dell'auto è un segnale che invito tutti gli ascoltatori a tenere ben chiaro in testa, perché l'auto ha chiuso 2018% e il 2018 il regime delle immatricolazioni, quindi auto nuove nel nostro paese, con un meno 3,1%, la quota Fiat Chrysler meno 10%. Allora, vista l'importanza che ha l'auto nei consumi degli italiani, che poi aveva ripreso negli anni di modesta ripresa, ma insomma la ripresa c'era, il fatto che il 2018 chiuda con un meno 3,1% è un segnale negativo che ci dice dove sta andando il PIL e dove sta andando il reddito disponibile degli italiani e soprattutto dove sono le attese degli italiani rispetto al prossimo futuro. Quindi attenzione, perché questo è un ulteriore elemento di frenata da considerare, non solo per quello che ci dice dei consumi degli italiani, ma anche per poi tutto il segmento dell'automotive italiano, cioè il segmento che poi più ha contribuito alla ripresa della produzione industriale e dell'export in questi anni di asfittica ripresa alle nostre spalle. Ecco, diciamo che forse, questo dice sempre Rompiscatole Giannino, non era il momento più adatto per l'ecotassa che arriva con la legge di bilancio e in cui la parte di malus che non è stato affatto levata investirà anche molti modelli del segmento medio e poi a salire. Non è che investirà solo il segmento delle alte cilindrate che già hanno il superbollo che mica viene meno. Ecco, secondo me anche qui un po' di riflessione sui numeri dell'economia italiana e di che cosa succede nel mondo sarebbe stata utile. Infine, ultimissimo pensiero, abbiamo iniziato l'anno ieri con una banca italiana commissariata dalla BCE, ancora con la Banca d'Italia, Carige. Ecco, per favore evitiamoci commenti su l'eventualità che si tratti di una banca italiana travolta dagli impropri sistemi di vigilanza europea, da complotti internazionale dei mercati che non capiscono e da regole sbagliate, neanche per idea. Carige, che usasse questi argomenti, come è stato fatto impropriamente secondo me nel caso di Banca Marche, Etruria, le due venete, e semplicemente tende a confondere il fatto, o lo fa in malafede, che anche a Genova questo stato che porta al commissariamento è l'effetto di anni e anni di condotte incomprensibili, irresponsabili, improprie e credo talora illegali di manager e soci italiani in combutta con interessi impropri, sistemi di relazioni politiche, e nella certezza poi di essere sempre salvato rinviando soluzioni che erano via via sempre più obbligate, cioè maritarsi con qualcuno che si prendesse la voglia di dare solidità patrimoniale a Genova in cambio del fatto che gli si attribuisse però la conduzione della banca. No, fino a dire no dopo aver bruciato centinaia di milioni di euro anche da parte dei nuovi soci come Malacalza negli ultimi anni, fino a dire di no a una roba che era obbligata a dicembre, dicendo ma tanto poi noi contiamo sui 303 milioni del fondo di tutela dei depositi. Ecco, quando si arriva a fare questi calcoli non c'è che una cosa da fare e cioè commissariare e far capire a questi azionisti che non sono all'altezza, perché generano situazioni di instabilità. Non c'è niente di sistemico in questo, tranne il fatto che è sistemica la reiterazione delle follie di queste condotte nel sistema bancario italiano. Questa è la mia opinione, molto contundente, me ne rendo conto, come al solito, minoritaria. Ora andiamo invece al nostro ospite, ma prima facciamo una brevissima interruzione pubblicitaria e poi andiamo dal professor Walter Ricciardi. Mattino. Eccoci qua, siamo tornati in studio da Milano e con noi il professor Walter Ricciardi, napoletano, 59enne, docente di medicina preventiva, direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, che ieri in una lunga intervista al Corriere della Sera a Federico Fubini ha illustrato a lungo le ragioni che prima delle feste lo avevano spinto a rimettere nelle mani del governo il proprio incarico. Grazie di essere con noi, professore. Grazie a voi. Allora, posso chiedere innanzitutto una cosa, prima di arrivare a una determinazione di questo tipo, essendo lei una persona di comprovata serietà, non è uno che ha ricercato l'attenzione dei riflettori, insomma, quando si serve con dedizione la propria inclinazione di scienziato, di medico, eccetera, e si ha accettato un incarico di quel tipo, ma non per farne improprio moltiplicatore di se stesso, prima di assumere una decisione di questo tipo, immagino che ci sia una riflessione profonda, proprio perché lei non è uno che ricercava le interviste e le botte di visibilità. E in quella riflessione sua, che elementi hanno pesato prima di arrivare alla determinazione devo farlo per forza? Ma guardi, io avevo accettato 4 anni e mezzo fa, prima di fare il commissario, che era un ruolo estremamente difficile perché la situazione dell'istituto era veramente problematica dal punto di vista economico-finanziario, dal punto di vista organizzativo, e quindi avevo fatto il commissario per un anno, poi ero stato nominato presidente. Avevo accettato questi due ruoli veramente con spirito di servizio, perché l'Istituto Superiore di Sanità è una struttura veramente importante per il paese, forse adesso un po' più conosciuto, ma insomma di fatto si occupa di tutto quello che riguarda la vita civile, la valutazione e l'approvazione dei farmaci, dei vaccini, dei trapianti, del sangue, insomma tutte le cose che in qualche modo rendono la vita più lunga e più degna di essere vissuta passano attraverso le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. In questi anni, devo dire, il primo motivo è stato di soddisfazione, perché anche in condizioni difficili abbiamo sicuramente riorganizzato, rilanciato, l'Istituto adesso coordina progetti importantissimi a livello europeo, insomma ha una sua prestigio consolidato dovuto soprattutto alle oltre 2500 persone che ci lavorano, che sono ricercatori, tecnici, amministrativi di grandissimo valore, lo posso veramente dire senza piaggeria, ci lavorano persone straordinarie. Poi non c'è dubbio che le elezioni hanno contato, perché come diceva Obama le elezioni hanno delle conseguenze. Il rapporto, nonostante io abbia avuto e abbia un rapporto di grande cordialità con il ministro Grillo, non c'è dubbio che con questo governo le cose sono cambiate, nel senso che quella che era una collaborazione continua e costante, perché l'Istituto Superiore di Sanità è l'organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, quindi si interfaccia con tutti gli stakeholders del Servizio Sanitario Nazionale, il governo, il Parlamento, le regioni, i professionisti e gli stessi cittadini. Beh, qualcosa non ha funzionato, perché al di là, ripeto, dei rapporti positivi col ministro Grillo, ma ci sono state innanzitutto una qualcosa, capisci? Ma guardi, una serie di posizioni, certamente la prima storia è stata quella sui vaccini, sì. Ma il fatto che ci sia un disegno di legge che fortunatamente sembra che il Parlamento stia marciando, perché tutta la comunità scientifica, a partire anche da me, abbiamo messo a verbale che allentare l'obbligo vaccinale in questo momento sarebbe sbagliato, perché di fatto non abbiamo ancora raggiunto la sicurezza e ancora abbiamo di fatto una situazione veramente allarmante per il morbillo. E quindi i vaccini la prima cosa, la seconda cosa è stata questa costante attenzione assolutamente sbagliata e falsa dal punto di vista scientifico sui migranti come portatori di malattie, sui migranti come portatori di problemi, mentre invece non è assolutamente così. Poi faccio l'esempio dello smaltimento dei rifiuti, qui a Roma siamo... Lei sa, aspetti, perché sì. Su questo secondo punto è un punto che tocca enormemente la sensibilità e le convinzioni di chi sta a casa. Chi sta a casa, appena sente la frase che lei ha detto, avverte una specie di tentativo politico di dire: ma come fate a dirci che i migranti per i paesi da cui arrivano, per le condizioni proprio alle quali ci richiamate voi, che richiamate l'obbligo umanitario di occuparsene e quindi di bassissima tutela sanitaria, parlate addirittura di diritti umani e sopravvivenza, ci descrivete che stanno per mesi e mesi in balia di reti criminali che fanno commercio di carne da tutta l'area subsahariana fino al trasbordo nel Mediterraneo, a rischio delle loro vite, e poi ci dite che non sono anche un rischio sanitario per le patologie che possono portare. E tantissima gente è convinta, appena sentita la frase che lei ha pronunciato, che è una frase sintetica che non può approfondire, dice: eccoli il segno e la firma di un disegno politico. Per questo le chiedo di tornarci sopra, perché so per esperienza e per le lettere che riceviamo che quella è constata proprio la stimmate. Ah, vede che questa è un'obiezione politica, negano addirittura il fatto che sono un possibile problema medico-sanitario, quando invece bisogna spesso sottoporli, e lo vediamo in televisione, a dei cordoni medico-sanitari appena sbarcano. Lei che dice? Ma guardi, noi questa situazione la studiamo ormai da 10 anni, io stesso ho fatto e coordinato degli studi, le evidenze sono inequivocabili, cioè sostanzialmente la situazione della salute dei migranti è uguale a quella degli italiani, e quando noi tuteliamo la salute degli italiani tuteliamo anche la salute dei migranti e viceversa. Non portano malattie, questo purtroppo lo vediamo scritto anche su alcuni quotidiani di carattere nazionale, le evidenze ci dicono che l'unica situazione di allarme, che naturalmente può essere posta adeguatamente sotto controllo proprio con quelle misure che lei diceva, è la scabbia, perché chiaramente questi fanno dei viaggi lunghi, in condizioni di grande difficoltà, l'uno vicino all'altro. La scabbia è una malattia infettiva che si trasmette per contatto diretto, per il resto invece sono sostanzialmente persone sane, che naturalmente vengono debilitate dai viaggi quando li fanno in condizioni così difficili. Quando arrivano qui sono normalmente persone di età molto più giovane degli italiani, perché diciamo, è la cosiddetta sindrome del migrante sano che poi si ammala quando viene qui perché comincia ad abitare, a lavorare in condizioni difficili. Quindi i dati sono inequivocabili, proprio non c'è dubbio, ma questo non soltanto per l'Italia, per la Francia, per la Germania, ormai abbiamo delle collaborazioni internazionali che dovunque questo si verifichi, diciamo, per quanto riguarda le vaccinazioni, molto spesso succede anche questo paradosso, che arrivano da paesi dove le coperture vaccinali sono ormai superiori rispetto a quelle nostre, perché lì non c'è bisogno, diciamo, di promozione della vaccinazione, perché le mamme hanno visto i bambini morire, diciamo, hanno visto le terribili conseguenze delle malattie, a volte fanno viaggi di chilometri a piedi per fare le vaccinazioni, per cui anche sotto questo punto di vista, pur tuttavia noi continuiamo a monitorare ovviamente, ma i dati sono inequivocabili, la salute degli italiani e la salute dei migranti sono due problemi da affrontare contemporaneamente. Quando si fanno dei provvedimenti che per esempio li riportino in clandestinità o li abbandonino se stessi, è lì che si verifica il problema, perché nell'eventualità che questo migrante poi abbia una malattia o contragga una malattia di qualsiasi tipo, questo soprattutto se malattia infettiva diventa poi pericoloso, perché di fatto non sfugge al controllo delle autorità sanitarie. Quindi è un problema estremamente serio e complesso che non va banalizzato. L'evidenza scientifica viene messa a disposizione e i politici dovrebbero tenerne conto. Ora, i politici in precedenza, prima del 4 marzo e dopo il 4 marzo, cioè il 4 marzo perché non ricordasse, sono state le elezioni alle quali non avete votato questo governo, cari ascoltatori, nel senso che poi a giugno è nato un governo tra persone che erano avversarie e avversarie durissime nel voto, ma poi hanno visto lo stallo, Lega 5 Stelle hanno dato vita al governo a giugno. Quindi prima di giugno e dopo di giugno, nella sua esperienza di direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, la politica, non le chiedo di fare nomi e cognomi, ma per far capire a chi ci ascolta, che tipo di atteggiamenti impropri ha messo in atto una volta che lei ci ha detto i temi, ma che tipo di procedure vi hanno aggirato, vi hanno levato competenze, le hanno attribuite a terzi? Che cosa in concreto si può spiegare a chi ci ascolta per dire non solo pretendono all'allineamento nel merito a degli scienziati che devono seguire solo l'evidenza della scienza, ma hanno anche mostrato dei comportamenti impropri rispetto alle competenze proprie dell'Istituto Superiore di Sanità? No, guardi, pressioni assolutamente nessuna, mai da nessun politico, né da questo governo, né da questo Parlamento, né da quello precedente, assolutamente non si tratta di questo, però si tratta di decisioni che vengono prese a diversi livelli che chiaramente tendono ad ignorare o a sottovalutare il contributo che può dare un istituto importante come l'Istituto di Sanità. Le faccio l'esempio, decreto di smaltimento dei fanghi agricoli che vengono in qualche modo, dei fanghi, diciamo, che vengono poi smaltiti in agricoltura, è chiaro che questa sarebbe stata una procedura meritevole di approfondimenti, perché poi questi fanghi che vengono smaltiti vengono, diciamo, utilizzati in terreni che poi vengono coltivati magari per diciamo produrre cose che poi vengono ingerite, sarebbe stato il caso di fare una valutazione, questo non è stato fatto. Dico per esempio, le faccio un altro esempio, la città con il commissario prefettizio di Roma, a proposito della situazione sanitaria, avevamo una collaborazione continua con questo sindaco attuale, vediamo la situazione dello smaltimento dei rifiuti oppure degli animali che purtroppo circolano selvaggi nel nostro territorio comunale e che possono provocare sicuramente dei danni per la collettività, nessun contatto. Quindi che condizionamenti, è stata un'assenza di collaborazione che però è un fatto grave, perché in tutti i paesi del mondo gli istituti superiori di sanità o gli istituti di sanità pubblica collaborano attivamente con tutti quanti, diciamo, i decisori, proprio perché ogni giorno noi abbiamo delle decisioni da prendere che sono in qualche modo possibili cause o possibili problematiche per la salute dei cittadini. Quindi questo è più che condizionamento, quindi assenza di una vera e propria forte collaborazione come ci dovrebbe essere in un paese avanzato. Ma sull'organo ad hoc di consulenza per il governo in materia di vaccini, voi siete stati coinvolti? Ah, ecco, questo a dire il vero è stato effettivamente qualcosa che ci ha un po' colpiti, nel senso che la creazione di un organismo di consulenza per il ministro e per il governo a proposito dei vaccini è stato fatto con un nucleo strategico che per esempio esclude il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, che è uno dei massimi esperti mondiali, è uno dei nostri ricercatori di punta, è una persona che è chiamata in tutto il mondo a dare, diciamo, consulenze e consigli su come si fa. Il fatto che il nostro paese elabori una commissione strategica mettendo un suo collaboratore, diciamo, e non il direttore del dipartimento, non è certamente un segnale di grande, come posso dire, confidenza, fiducia nell'organismo. Forse anche per questo, insomma, contrariamente al mio collega inglese, perché non so se sa che cosa ha fatto il mio collega inglese, quando c'è stato il cambio di governo, perché lui era stato nominato da Cameron, è venuto Theresa May, e quando poi c'è stata Brexit, ha chiesto i soldi, che si ricorda quegli auto inglesi, come no, propagandavano di 350 milioni di sterline. E ha chiesto i soldi e Theresa May ha detto, guarda che non ci sono quei l'avete soldi. Detto voi, dateceli. Dateceli. E lui da quel momento in poi ha cominciato a essere estremamente fermo in questa richiesta, a mettere in grande difficoltà. Devo dire che è un mio idolo personale, in Italia ne hanno parlato poco tutti, ma l'ho trovato un atteggiamento splendido e anche in perfetta linea, un po' alla Woodhouse, devo dire, con questa linea british della presa per i fondelli, ma in maniera inappuntabile, perché siccome lo avevano promesso, e si trattava dei componenti fondamentali di prima fila del Partito Conservatore, David Cameron, che ha voluto il referendum, dice: il mio compito è di prendervi sul serio, voi lo avete detto agli elettori, adesso me li date. Io l'ho trovato fantastico, devo dire. Guarda, io quando ho preso il ruolo di commissario, siccome appunto io insegno e lavoro in Inghilterra da tanti anni, sono andato a trovarlo, si chiama Simon Stevens. Abbiamo fatto un patto di sangue, perché eravamo i due, diciamo, lui a capo dell'INHS England e io dell'Istituto di Sanità, di quei pochi paesi che ancora hanno un servizio sanitario nazionale pubblico e gratuito. Abbiamo fatto un patto di sangue per difenderlo. Lui fa bene a dirlo, perché in Italia molti sono convinti che la Thatcher abbia smantellato l'NHS in Gran Bretagna e quindi sia tutto in mano ai privati. Confondono, insomma, il sistema delle tutele degli Stati Uniti rispetto a quello invece della Gran Bretagna. La ringrazio per dirlo. Ecco. Assolutamente, il servizio sanitario nazionale, nonostante tutti i problemi, rimane un grande servizio sanitario nazionale. Ecco, lui ha deciso di rimanere in polemica, perché non c'è giorno che praticamente non faccia una polemica col governo. Io ho preferito fare un passo indietro. No, ma la cosa fondamentale è che non per questo lo cacciano, tra l'altro. No, assolutamente, ma guardi, nei grandi paesi avanzati la sanità è una materia bipartita. Così dovrebbe essere l'ambiente, così dovrebbero essere i calcoli attuariali di lungo periodo del sistema previdenziale, tutto ciò che riguarda la sostenibilità, di cui la salute, la sicurezza, l'ambiente, i conti intergenerazionali dovrebbero essere sottoposti, a mio giudizio, non si può chiederlo a costituzioni di 60-70 anni fa, ma negli ultimi 20 anni dovremmo, tra virgolette, dovremmo aver acquisito la consapevolezza che queste materie, cioè quella della sostenibilità di medio-lungo periodo, che sono i pilastri che qualificano una società o la condannano al declino e ai problemi e all'iniquità e all'ingiustizia, dovrebbero essere salvaguardati da un regime delle parti, che significano anche, per essere chiari, cari ascoltatori, regole di tutela delle maggioranze rafforzate con cui si prendono le decisioni politiche su questi argomenti, perché hanno un impatto talmente rilevante sulla sostenibilità di medio-lungo periodo, da generazione a generazione, ascensori sociali o non ascensori sociali, utilizzo delle risorse, economia circolare o meno, che dovremmo aver imparato che non si cambia e si butta via tutto a seconda del colore di chi ha vinto le elezioni. Ma questo in paesi civili che usano la testa e non la pancia. Posso chiedere un giudizio anche sull'informazione, la lettera dei 130 scienziati pubblicata oggi sul Foglio, e grazie sempre a Luciano Capone che sul Foglio in questi ultimi anni ha dedicato grande attenzione al tema del no alle false informazioni medico-scientifiche, perché andiamo dai casi, in questo caso dei vaccini, e dalle ricerche infondate, ma molto che puntano sull'eco mediatico e sul consenso, la confusione dell'idea della gente, come quella Freevax Corvelva finanziata, mi dispiace dirlo e lo sottolineo, anche dall'ordine dei biologi, ma andiamo da quello alle polemiche sulla xylella e così via. Ecco, qual è l'opinione di Walter Ricciardi sul ruolo dell'informazione, che a me sembra, ohimè, non secondario rispetto anche a quello della politica, sul tema delle false informazioni scientifiche? Ma guardi, ci sono anche io tra quegli scienziati, ho firmato anche io, perché sono assolutamente convinto che in certi casi l'informazione sia molto più importante della scienza stessa. È chiaro che noi dobbiamo fare buona ricerca, buona scienza, però poi la dobbiamo divulgare ai cittadini, quindi i media sono importantissimi nello svolgere questo ruolo. Devo dire che io in questi anni, ma in tanti anni che faccio sanità pubblica, ho avuto sempre un'ottima collaborazione con i media, perché i giornalisti italiani nella stragrande maggioranza dei casi sono dei grandissimi professionisti. Poi ci si imbatte ogni tanto in situazioni come queste che lei ha citato. D'altra parte questo quotidiano aveva già fatto un titolone tanti anni fa. Il Tempo, stiamo parlando, sì. Sì, esatto. Iniezione letale, io la ricordo ancora, quando forse si ricorderà, erano morti alcuni anziani dopo che si erano fatti la vaccinazione anti-influenzale per cause del tutto indipendenti dalla vaccinazione, erano in certi casi cause cardiovascolari, malattie pregresse, e naturalmente poi l'indagine ha confermato, come da sempre succede nel corso degli anni, che la vaccinazione anti-influenzale non c'entrava niente. Però quel titolo e anche altri atteggiamenti da parte di alcuni, ripeto non di tutti, aveva provocato un calo enorme delle vaccinazioni anti-influenzali, provocando migliaia di morti direttamente. Cioè, quindi queste persone non si rendono conto dei danni che fanno nel propagandare delle cose. Ma chi lo sa, professore, dice che non se ne rendono conto, perché sarebbero veramente dei responsabili, come dice Papa Francesco, di fronte a Dio agli uomini. Ma di fronte a Dio agli uomini, lei non sottovaluta il fatto. Io ci credo poco al fatto che siano inconsapevoli, per il semplice fatto che faccio sto mestieraccio da tanto tempo e mi è capitato di lavorare in aziende editoriali in cui il cinismo era: oh, così facciamo copie, facciamo rumore, andiamo sull'estremo registro della sensibilità emotiva, e noi dobbiamo strappare copie, dobbiamo sopravvivere, eccetera, eccetera. E io ci sono stato un po' così. E lo so, ma me ne rendo conto. Letteralmente morti e feriti, ecco. Però ci vorrebbe un senso di responsabilità. Quindi io lo testimonio, perché magari sarà capitato solo a me, ma non credo. Quindi io sono passato per imprese editoriali in cui il ragionamento che spingeva alla scelta di questi temi, soprattutto di questi toni e di certi titoli, era esattamente quello che ho detto, cari ascoltatori. È il motivo per cui poi non ho più voluto fare giornalista dipendente, sono un freelance, accetto la precarietà dei miei contratti che scadono, però tra virgolette il padrone lo scelgo io, nel senso devo dire che io partecipato spesso ultimamente con Piero Angelo e Silvio Garattini ai corsi dei giornalisti, in particolar modo a quelli della RAI che fanno a Perugia, e devo dire ci siamo veramente impegnati a dire ma questa è una grande battaglia. Io ringrazio, perché la comunità scientifica non è detta che si debba impegnare, debba trovare il tempo anche per occuparsi delle linee guida e per fare campagne pubbliche su come si fa la corretta informazione. Linee guida per fare la corretta informazione, sì, assolutamente, è deontologia primaria di chi fa ricerca scientifica in tutti i campi. Il problema è di dover intervenire pubblicamente anche a costo di mettere in gioco il proprio nome, come fa il professor Ricciardi, perché questo fa, dimettendosi per polemica, per sottolineare il problema delle improprie inframmettenze politiche rispetto alle linee guida della scienza, e dall'altra parte a richiamare in polemiche pubbliche, che varranno anche al professor Ricciardi, quindi insulti, cose come a tutti quelli che fanno polemica civile pubblica, però poi c'è la gente ti insulta. Ecco, fare questo non è affatto detto che sia un dovere dello scienziato, del medico, del ricercatore, del microbiologo e così via. Quindi io ringrazio tre volte chi lo fa, però la prego di avere ancora un secondo di pazienza, perché abbiamo due ascoltatori esattamente sul tema di cui stiamo parlando. Se ci dà ancora due minuti, così faccio rispondere direttamente lei, professor Ricciardo, cominciando da Edmondo che ci chiama da Rieti. Edmondo. Esatto, salve dottor Ricciardi, salve a tutti. Condivido praticamente in toto le posizioni esposte. L'unico mio dubbio è invece per quanto riguarda sia l'istituto che la posizione dello Stato stesso. Io credo che molte di queste polemiche, ovviamente ingenerate da da ben poco di scientifico e molto invece di opportunità, siano dovute intanto a una legge che crea, come dire, un'ipocrisia per legge, no? Quella degli informatori scientifici, e di fatto che spesso le industrie che producono vaccino fanno joint venture e qualche volta per mettere in comune i loro saperi, qualche volta semplicemente perché si ritrovano in due o tre raggruppamenti a partecipare a gare molto chiotte. Io alla fine credo che sì, nessuno possa mettere in dubbio la validità scientifica, però ecco, c'è anche un fatto di ipocrisia di fondo dello Stato, perché chiamare informatore scientifico uno che è un venditore, insomma, lascia sempre un po' perplesso, no? Chiarissimo. Allora, il Devondo Rietti, adesso sentiamo Giuseppe da Bruno, devo una risposta a una raffica SMS che ci viene da uno dei nostri più tenaci oppositori, ascoltatori, Ulisse. No, Ulisse, io non sto all'opposizione di niente, di nessuno, e non ero favorevole a Renzi, se ti ricordi. Non c'entra niente volere gli argomenti bipartisan, perché adesso vi fa comodo che avete perso elezioni, io non ho perso nessuna elezione, mi dispiace. Stiamo parlando di argomenti di sostenibilità di medio-lungo periodo che andrebbero preservati rispetto a quelli che si decidono ogni tre mesi da parte della politica, perché hanno un impatto diverso, Ulisse. Detto questo, uso ovviamente te e mi scuso per rispondere a tutti gli altri ascoltatori che continuano a confondere su questa materia argomenti da tribuna politica. Per esempio, tutti gli ascoltatori che dicono no, bisogna fare libero confronto free vax e sostenitore dei vaccini. Ecco, voi pensate che da questo punto di vista non esiste ciò che le ricerche scientifiche asseverano dopo anni e anni di esperimenti reiterati, di osservazioni patologiche sull'evoluzione delle patologie in campioni mostruosi di popolazioni? No, pretendete 3 minuti a testa perché è libertà di informazione. Io non so che cosa dirvi, ci sono delle materie sulle quali l'evidenza scientifica non si può ridurre a 6 del PD o 6 dei 5 Stelle. Almeno io la penso così. Che dice il professor Ricciardi? Assolutamente d'accordo. Cioè, ma è come se uno mettesse a confronto una persona che pensa che ancora la terra è piatta. Ecco, ci sono evidenze scientifiche che ormai da secoli consolidano questa cosa. Bisogna andare avanti, bisogna ovviamente acquisire sempre nuove conoscenze scientifiche, ma col metodo scientifico, perché la scienza non ha sempre ragione. Ah no, certo. Può essere confutata soltanto col metodo scientifico, non con le palle, le truffe, le fandonie che alcuni... Poi hanno sempre, Piero Angela li ha inquadrati, hanno sempre la stessa caratteristica. Sono dei geni incompresi, oppressi, esatto, dalle multinazionali, insomma hanno sempre le stesse caratteristiche. Perché dal caso Stamina a prima ancora ad altri casi di una certa quale evidenza pubblica con la politica che ha fatto protocolli sperimentali, il nostro caso più o meno è sempre quella la faccenda. Assolutamente. Impossibilità di replicare formule, esatto, che solo in Italia poi diventano invece, ecco, sono la dimostrazione che è un perseguitato. No, se non è replicabile la formula e non sono evidenti i risultati replicabili che vengono mandati, vuol dire che stiamo parlando di una pura mistificazione. Però ok, che dice al nostro ascoltatore che dice anche il pubblico, però quando sulla figura dell'informatore scientifico mi confonde tutto, mi vengono i dubbi? No, vabbè, è chiaro che, voglio dire, bisogna essere sempre molto trasparenti e molto onesti. L'ascoltatore faceva riferimento al fatto che molto spesso la promozione di farmaci la fanno appunto gli informatori scientifici, che naturalmente hanno interesse a che poi magari i medici e il personale sanitario, in particolar modo i medici, prescriva quei farmaci. Lei lo sa che uno degli argomenti di maggior presa è quello di chi sostiene gli obblighi vaccinali perché siamo sotto effetto gregge, in realtà prende i soldi da Big Pharma. Sì, assolutamente, questa è un'accusa anche che mi è stata fatta ricorrentemente a me e anche altri colleghi. Il ragionamento però è questo, che in realtà proprio nel settore dei vaccini si sta verificando l'esatto contrario. Cioè, noi avevamo una ventina d'anni fa tante aziende che producevano vaccini, di fatto oggi sono, pensi, in tutto il mondo soltanto 5, perché siccome i soldi veri si fanno sui farmaci, perché quando le persone sono malate non badano a spese, perché quando sono sane vogliono, diciamo, evitare problemi che loro attribuiscono ai vaccini, perché in realtà i vaccini hanno contribuito a evitare. Oggi purtroppo abbiamo soltanto pochissime aziende e stanno diminuendo sempre di più, per cui sono sempre le stesse che producono i vaccini, meno male che ce l'abbiamo, perché lei pensi che se in questo momento succedesse un terremoto dell'unica fabbrica europea che produce vaccino contro la febbre gialla, avremmo probabilmente milioni di africani che non sono protetti. Cioè, in questo momento c'è soltanto, lei pensi che per esempio in Italia non esiste più una fabbrica contro per costruire i vaccini contro l'influenza. Nel momento in cui venisse un'epidemia, una pandemia di influenza come l'abbiamo avuta tanti anni fa, noi non avremmo la possibilità di costruire. Questo solo per dirvi, cari ascoltatori, che la famosa industria dei vaccini non è remunerativa per le aziende farmaceutiche. Aziende farmaceutiche che, per esempio, per i nuovi farmaci devono oggi mettere in conto cicli temporali di investimento molto più lunghi che decenni fa, come è ovvio, per ripagarsi di investimenti di quel tipo, sì, guadagnerebbero di più dal fatto che ci fossero più malati invece che più immunizzati. Questo è tragicamente il bilancio sanitario. Io ringrazio il professor Valtricciardo per il tempo che ci ha dato. Mi piace il fatto che siano arrivate più telefonate su questo che rispetto al decreto sicurezza. Comunque, continuate su Radio 24, ci sono anche oggi pomeriggio naturalmente alle 16 e domani mattina ancora alle 24 mattina alle 8 e 10. Viva Radio 24, viva voi ascoltatori.